Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Le aree degradate, dove restano soprattutto rovine di un'Italia industriale e manifatturiera che ormai non c'è più, sono tante e sono sempre anche molto difficili da riqualificare. Ecco perché questa sera vi vogliamo parlare di un progetto che ha preso vita nell'area della Bergamella, una zona degradata del parco della media valle del Lambro tra Monza e Milano, area segnata dal suo passato industriale. Un'operazione modello per come ha saputo coinvolgere la cittadinanza, di cui ci parla Chiara Albicocco, che ha intervistato Luca Ceccattini, architetto e anche presidente del Parco della Valle del Lambro. Sentiamo. Quella della Bergamella è un'area come tante nella media valle del Lambro, un territorio che ha subito gravi forme di compromissione negli ultimi decenni. Nella fattispecie è un'area confine tra Sesto e Milano, dove sorgeva una sorta di rione di orti abusivi. Il progetto di riqualificazione ha contemplato la rimozione di tutti gli orti abusivi e la costruzione dei nuovi orti urbani regolari e legittimi. Detto così, poteva far pensare a una relazione non proprio facilissima tra coloro che venivano, come dire, sgombrati e coloro che poi si sarebbero appropriati degli orti ben fatti, questi 100 di cui ci parlava. Invece non è stato così, è stata una riqualificazione molto pacifica. Esistevano circa 3 ettari di orti abusivi. Il progetto non è partito mandando lì le ruspe a rimuoverli, ma è partito andando a dialogare con questi ortisti. Dialogo dopo dialogo ci siamo accorti che forse il termine abusivo era esagerato e così li abbiamo rinominati ortisti spontanei, diciamo diversamente autorizzati. Li abbiamo convinti che potevamo stringere un patto. Il patto è stato che se ci aiutavano a demolire i loro orti spontanei e a costruire quelli nuovi, potevano avere un punteggio aggiuntivo nella graduatoria comunale di riassegnazione degli orti. Avendo partecipato in qualche modo alla trattativa, hanno poi partecipato anche in termini proprio materiali alla riqualificazione dell'area, che è stata fatta con una filosofia, con una politica di condivisione totale, nel senso che appunto anche la costruzione, anche l'idea che voi avete avuto di realizzazione ha una finalità ben specifica. Sì, è un progetto che ha contemplato una fase di decostruzione partecipata, gli orti sono stati smontati, decostruiti, divisi i vari materiali, plastica, legno, calcinacei, materiali pericolosi. In questo modo siamo riusciti a contenere moltissimo le spese di demolizione e reinvestire quei fondi. Abbiamo coinvolto i cittadini in prima istanza, coinvolgendoli nella partecipazione di costruzione del parco, e in questo modo abbiamo costruito un percorso di riappropriazione di questo luogo, che è partito fin dalle fasi preliminari al cantiere vero e proprio. E avete pensato nella progettazione anche a degli spazi condivisi? Sì, abbiamo anche pensato che fosse necessario individuare un modello ben specifico di orti. Nella fattispecie abbiamo scelto un modello già attivo in un altro parco di Milano. Il modello scelto contempla non una segnazione individuale di lotti, di orti con il proprio sgabbiozzo, ma l'idea che gli orti possano essere concentrati in lotti funzionali di circa 30 orti nello specifico, ognuno dei quali servito da un capanno comune dentro il quale ognuno ha il proprio spazio, è un po' come una cabina di riccione, ma capanni che hanno poi all'esterno anche uno spazio di pergolato, uno spazio barbecue, uno spazio di socializzazione. Diventa una forma ulteriore di condivisione del progetto. Di queste aree, come lei ci ha descritto, ai bordi delle nostre città, dei nostri paesi, ce ne sono davvero tanti. Possiamo pensare che questo piccolo esempio, questo progetto degli orti della Bergamella, possa in qualche modo essere poi reimpiegato? Il parco e il suo progetto nascono non dall'esigenza di tutelare un territorio naturale dall'aggressione dell'uomo, ma fare esattamente il contrario, cioè restituire naturalità a un territorio pesantemente aggredito, e coloro i quali, non sono molti, hanno territori compromessi come il nostro, possono, diciamo, guardare come a questo come un esempio fattivo. Va bene, torniamo in studio, ma solo per salutarci, darci appuntamento a domani. Buona serata.